è tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E salve ragazze, buonasera. Noi siamo in diretta nel confessionale di Grande Sorella e sono in compagnia della sposa Jenny. Jenny con la sua amica Ilaria. Ilaria, amica testimone o amica? Testimone. Testimone, quindi abbiamo una persona abbastanza importante. Quindi Jenny, dimmi un po', ti aspettavi questo weekend così carico? No, non me l'aspettavo. Cioè, immaginavo fosse questo weekend il mio addio nubilato, ma non così carico e così bello e divertente, ammetto. Sì. Ma la tua giornata è partita, diciamo, da stasera o già da stamattina? No, da questa mattina. È partita questa mattina con le mie amiche che col megafono mi hanno chiamato. Un bel risveglio. No, sì, soprattutto per canzone, i vicini. La canzone con che cui canzone? Abbiamo... Ah, tipo delle... Sono, ci sono presentate con la canzone delle Spice Girls. Tipo, fammi sentire un po'. Con Wanna Be. E abbiamo la testimone che l'ha svegliata così stamattina, ragazzi. Sì, esatto, è stato molto divertente, soprattutto per i miei vicini, immagino. Immagino, spero che non sia cioè, non era presto. No, erano circa le 10 del mattino. Ah, vabbè, sì, allora era un orario accettabile. Non la denuncia, ecco, no, no, diciamo no, meno male, dai, se no ci ricordavano ancora di più questo giorno. E dimmi un po', sì. Allora, perché qui è un confessionale. Quindi domande scomode. Abbiamo delle domande da farti. Pronta. Allora, innanzitutto, come si chiama lo sposo? Paolo. Paolo. Sì. E ne è al corrente di questa serata? Nei dettagli non credo. Cioè, sapeva la location, ma non credo gli sia stato informato dei dettagli. Vabbè, già che sapeva la location non va bene. No, perché no, lo sposo non deve sapere dici? Nulla. Ah, questa cosa non la sapevo. Non va bene. È vero? È vero, è vero. Troppe cose sa lo sposo. No, troppe. Troppe. E sopravvivere lui. Ecco. Dimmi un po', da quanto tempo state insieme? Da 4 anni. Ah, ci sta allora il matrimonio. Sì, sì, è stata una sua iniziativa, giuro. Non è stato spinto. Tu non te lo aspettavi? No, giuro, non me l'aspettavo. Non ora. Quanti anni cioè... hai? Tra quanti? No, no, tra quanti di... anni hai tu? Io 35. Quanti l'età anni giusta. Ha lui? 26, ahimè. Possiamo dire che è un toy boy. Wow, ragazze. Ha un cazzo di toy boy. Vabbè, ma c'è da dire anche boy. Non gliele dai 35 grazie, anni, però, grazie, sei un vero tesoro. Grazie. Cioè, io mi immagino vicini, c'è la differenza. Non conosco lui, però penso... Di solito danno più anni di me. Quando ci vedi? Vedo insieme, tipo, lui danno circa sui 30 anni, a me qualcuno in meno. Hai visto? Quindi, allora, dai, sì, esatto. Cioè, a te tolgono, a lui gliele danno. È fantastica, sì, questa esatto, cosa. Questa cosa è meravigliosa. Sarebbe stato peggio il contrario. Quindi si può dire che a letto è il numero uno, essendo giovane, sì, bello fresco. Uno, assolutamente. Sì. Tu lo sapevi? Tu lo sapevi? Certo, tutto nei dettagli. Nei dettagli. Anche i dettagli. Allora vediamo, conosci la sua posizione preferita? Di lei? Lei sopra. Questa è la sua supposizione. Io non gliel'ho forse mai confermata. Ci dai la conferma? O la smentisci questa cosa? No, non lo so, dovrei un attimo pensarci. Vabbè, la voglio dire. O è il primo o il secondo posto, no? Direi che ci possiamo fermare alla prima. Su cosa più o meno ci batte tra il primo e il secondo posto? C'è quella oppure? Oppure forse quella classica, dipende. Ma va a cagare, va. È la classica per te cosa si intende, scusami? Beh, quella del missionario. Quella. Ta. Invece guarda, abbiamo anche lui è il mio amico sposo. Sì? Sì. Napoletano? No, è di Lecco, di Milano. Ah, lui mi ha detto che era napoletano. Guarda quante bugie che corrono qui dentro, ragazze. Dopo glielo dico. Scusami, ma non sei di Napoli? Prova a chiedere dopo. Ha detto che è di Milano e la sua ragazza è di Lecco, quindi. Ah, bene, mi fa piacere. Ottimo a saperlo. E dimmi una cosa, hai notato qualcosa di strano qui fuori? Un po' di disagio in alcune persone, ma a parte questo no. Beh, disagio c'è. Un po' perché... di ubriachezza. Un po' di ubriachezza in generale. Si no, vede. Però molto divertente. Sì. È stata molto divertente, no? Cosa sì, c'è sì. di strano che non hanno notato? No, non lo so, chiedo, perché no. ho fatto ogni sera c'è qualcosa di strano. Allora ognuno nota cioè, qualcosa di strano, il diverso. Il nostro amico che si è spacciato napoletano che vorrebbe entrare a fare il confessionale. Sì, ma lascialo perdere. Lo lasciamo fuori. Sì. Più vuole entrare, più non lo facciamo entrare. Brava, giusto. Giusto? Sono d'accordissimo. Si funziona così. Funziona così. Più cioè, almeno per noi donne, così funziona. Guarda, sì. Fai finta che non c'è. Tanto non noi ci sente. No, esatto. Ignoralo. Che figata. Non ci sente. Bellissimo. E vuoi fare qualche domanda, tu testimone? Che dici? Domande fattibili, possibilmente, no, perché lei no, è molto no, pericolosa. No. Io per questo ho fatto restare lei, perché so ecco, che è pericolosa. Hai già capito, ecco. no, ormai il peggio l'ha superato. Ah sì, vabbè, però adesso qualche altra domandina piccantina gliela puoi fare anche tu. Dai, dai, si dai. Si deve dai. Impegnare a pensarci. Si deve impegnare? Sì, perché ormai le ho fatte tutte. Sì, in effetti diciamo che lei non ha molti filtri, ci conosciamo da 20 anni, in questi 20 anni sì. Mamma mia. Abbiamo esaurito forse 20 anni. Vabbè, le hai fatte fuori però le domande, o tantomeno prima, le adesso qui non le hai fatte. La più piccante che gli hai fatto stasera, facciamo così. Allora, cosa ti ho detto stasera? Aspetta, ti ho detto tante cose. Ti ricordi qualche domanda che ti ha fatto? Vai e sentiti disinvolta. Ah sì, ecco, è tipo balla col palo. Balla col palo, lei è un po' rigida. Vabbè, giustamente deve cercare la persona adatta per sciogliersi. Brava, vedi, bravissima. Vedi? Che posso farlo con tutti. Ti capisce, no? Dentro. Sì, mi ha letto dentro. Hai visto? L'ho letta nel pensiero. Brava, è vero. Allora, io facciamo una cosa. Ti faccio andare a trovare qualcun altro per ballare. Ok, grazie. Perché la serata è ancora un po' lunga. Ok. Non puoi andare via così e ballare solo con un palo. No, hai ragione. No, no. No, no, non va bene. Beh, allora, l'ultima cosa. Direi di fare un augurio agli sposi. Tu, Jenny, fai un augurio agli sposi. Io? A questi sposi? A te, Paolo. A me, Paolo. Allora, auguro a me, Paolo, di... Ovviamente che questo matrimonio duri. Okay. E non dico di non discutere mai, perché questa cosa è impossibile, però di avere sempre la voglia e la forza di trovare un punto in comune, di venirci incontro, quindi di non rompere le cose, perché le cose si romperanno ad un certo punto e forse ripetute volte, ma di trovare sempre la voglia di riaggiustarle. Bravissima, è così anche in tutte le coppie, quindi va benissimo così, dai. Io ti lascio proseguire. Grazie. E un tanti auguri, va bene? È stato un grande piacere, grazie. Grazie a te, ciao. Ciao, ciao.